Sit-up-a-dup-dee mama, sit-up-a-dup-dee papa, sit-up-a-dup-dee mama, dee papa, shab-a-dup-a-dup-dee-da. Sto a Montecitorio, entro la ministressa, e proprio mentre passa, io ci tocco la fessa. Sono a palazzo madame, e qualcosa s'arrizza, entra la ministressa e ci tocco la zizza. Viva papi che pipa dentro il ministero, viva papi che pipa, cosa qua guaracqua, viva papi che pipa. E che tocca la zizza, ogni volta che ti vedo, il mio cuore s'appiccia. Sap dap di mamma, sap dap di papà, sap dap di mamma di papà, sap dap dap di da. Passa la ministressa con la pipa in bocca, guai a chi la tocca, l'hai toccata tu. Oh ministra, ministressa, quanti passi devo fare per entrare nel castello con fede o con l'anello? Viva papi che pipa dentro al ministero, viva papi che pipa, una cosa qua guarda qua, viva papi che pipa, e che tocca la zizza, ogni volta che ti vedo, nel mio cuore s'appiccia, sap dap di mamma, sap dap di papa, sap dap di mamma di papa, sap dap dap di da.